greater than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, fabbrica di polli, il sistema di aerazione comincia a mostrare i primi segni del tempo. Kappa e Drago si sentono poco bene. Che caldo, Kappa, eh? Sì, ma non fa solo caldo, Drago, dai. No, qua dentro si soffoca, infatti. Manca l'aria. Sono un po' pleonastico, Kappa. Avevo già detto io che si soffoca, non è il caso. Scusa, per una volta che siamo d'accordo, volevo solo rinforzare il concetto, aggiungendo che manca l'aria. Sì, appunto, però visto che manca l'aria, risparmiatela. E poi, se andiamo a vedere, ero io che avevo iniziato il discorso dicendo che non fa solo caldo e tu hai detto che si soffoca, quindi hai cominciato tu a sprecare fiato, non io. Beh, però tu hai continuato, che è peggio. Ti sei ammutolito? Oh, che fai? Risparmio l'aria. Ah. Risparmiala anche tu, va? Ci deve essere qualcosa che non va nell'impianto di condizionamento. Sì. Io ho il sospetto che sia giunto quel momento. In quale momento? Il momento de... Il condizionatorista aggressivo! Il condizionatorista aggressivo è una specie professionale in via di proliferazione. Dopo anni di relativo torpore, il condizionatorista aggressivo ha risalito la china e al momento la sua marcia sembra inarrestabile. L'uso e l'abuso di sistemi di condizionamento durante le calde estati continentali ha favorito l'improvviso sviluppo della specie. Il condizionatorista aggressivo si distingue per la spavalderia e il caratteraccio, oltre che per la regolare disfatta di ogni sua installazione. Il servizio assistenza del condizionatorista aggressivo è rappresentato dallo stesso condizionatorista aggressivo e questo cortocircuito porta spesso a un blocco delle pratiche di assistenza con conseguente nascita della specie del cliente aggressivo. Gli scontri tra condizionatoristi aggressivi e clienti aggressivi sono ormai all'ordine del giorno e saranno presto regolamentati dal Comitato Olimpico Internazionale. La fabbrica di polli! Baby gang! Poi Tarek, adesso basta. Hai 28 anni, quasi 29. Non puoi mica fare il capo di una baby gang, Dammi l'orologio! Uè, ma quale orologio, Giù le mani! Dammi il cellulare! Ma che cellulare? Se proprio ti devo dare qualcosa, ti do una roncolata io, Te! Hai capito, Tarek? Tu il prepotente lo puoi fare solo coi pulcini, ma perché coi polli adulti tu sei spacciato, E che trovano in testa? Sei il capo di una baby gang? Vuoi fare il capo? Allora devi scegliere anche delle baby vittime, Perché sennò ti becchi solo un sacco di bastonate, Baby bastonate? No, le bastonate non sono mai baby, sono sempre e solo bastonate. Aia! Aia! And the animals suffer. Dalle nebbie del canton Uri si erge un grido forte con sottofondo di mucche e alborn e tutti insieme diranno Sankt Gallen, patrone di mondo! Ma la puzza sta aumentando qua. Ci credo, lo sfiato centrale è intasato, guarda. Ma qui bisogna avvertire qualcuno, se è possibile che nessuno se ne accorga. No, aspetta un attimo. Pronto? Pronto, amministratore. Non funziona più lo sfiato. Lei com'è messo nei suoi uffici? Io ho un impianto di aria condizionata ultimo modello, che manovro da solo, che dà l'aria condizionata solo nelle mie stanze e trasmette anche musica e profumi. Posso decidere io in qualunque momento se accenderla, spegnerla, se sentire la musica, se sentire i profumi, se non sentire niente, se sentire solo il suono caldo della mia voce quando parlo da solo. Sono il pollo VIP, il very important pollo. Dico assolutamente sì, piuttosto che adoro essere un pollo. sono il pollo VIP e parlo come un pollo. La fabbrica di polli. Niente, niente, l'amministratore se ne frega, Drago, sì. Lui ha il condizionatore personale che emana aromi New Age, capito? Mentre per noi qui l'aria ormai è irrespirabile. È un egoista, te lo dico io. No. Egoist. Cappa. Ma d'altra parte chi ne dubitava, eh? Se è diventato AD, un motivo ci sarà. No, ma guarda, cappa, che l'amministratore non è un semplice egoista, anzi, non lo è affatto. Ah, no? Ma no, sei tu che sei troppo semplicista. Uno che pensa a se stesso e basta, per te è un egoista, no? Ah, dai, perché? Non è forse così, scusa. No, cappa, hai mai sentito parlare di Nirvana? Nirvana, certo, quelli di puzzi come i calzini di un adolescente. No, a parte il gruppo rock, che poi non era i calzini di un adolescente. Vabbè, no. Nirvana, il Nirvana invece è la beatitudine dell'illuminato buddista, no? Vabbè, ma certo, lo sanno tutti. Ecco, però non tutti sanno che l'illuminato alla fine del suo percorso non fa altro che dire a se stesso: la percezione è tutto. La percezione è tutto. Il mondo va bene se io mi sento bene. Per stare bene e quindi far andare bene il mondo, devo evitare i dolori. Per evitare i dolori devo fare il meno possibile conto sugli altri e cercare di essere invulnerabile e perfetto nella mia interiorità. E per arrivare a questo stadio devo concentrarmi su me stesso ed eliminare gli altri dai miei interessi. Ecco un egoista o un uomo in pieno nirvana. Bisogna vedere come la guardi, no? Sì, vabbè. Quindi, secondo me, l'amministratore delegato è un illuminato. Sì, illuminato, lampadato sicuramente, illuminato non lo so. Pronto? Amministratore delegato, ma lei in realtà è un amministratore lampadato? Può anche darsi, ma non ho tempo di approfondire questo argomento, perché ho un sacco di roba da fare. Tipo? Avere cura del davanzale della mia finestra, quella che dà sul giardino. Ah. Che io pulisco, mi sono comprato una spazzolina apposta. E tutta la mattina la passo a pulire il davanzale. Ma come? Appena si posa un granello di polvere, io fruc! Ma un amministratore delegato è pagato per ben altro. No. Un amministratore delegato è pagato per stare nella sua stanza, ma nessuno sa cosa fa nella stanza. L'amministratore delegato nella sua stanza fa quello che vuole. È quello che lo distingue da tutti gli altri. Gli altri nella loro stanza, ammettendo che abbiano una stanza singola, perché quasi tutti sono più di uno nella stessa stanza, sono controllati per fare determinate cose. L'unico che ha il privilegio di non essere controllato è l'amministratore delegato. Che in sostanza una telefonata alla settimana dai suoi capi, basta, questo è l'unico controllo che ha, capito? Per il resto impiega il suo tempo come gli pare. Sì, però, scusi, in sostanza l'amministratore delegato è pagato per stare nella sua stanza. Esattamente, l'importante è che ci stia, non sempre, perché sennò crea questa abitudine. L'amministratore delegato è un po' come l'artista, ha bisogno di essere percepito come un personaggio della mitologia, non può farsi vedere dall'ortolano che compra i ravanelli, capito? Sennò che artista è? Uno lo vede in televisione e poi lo vede dall'ortolano. È come vedere Mike Bongiorno che compra le sigarette al tabaccaio, non ha senso. Allora questo qui esiste per davvero, no? Invece no, televisione è tutto distante, lontano. L'amministratore delegato è così. Infatti è un artista, un creativo. Che cosa succederà adesso? L'improvvisa ricomparsa dell'amministratore delegato porterà a un miglioramento delle condizioni di vita all'interno della fabbrica? E l'amministratore è un egoista o un illuminato buddista? La risposta a questo e altri interrogativi sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo benaugurante allestimento de... La fabbrica di polli produce... La Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Libra è mio, eh? Musicista, è un musicista delle macchine. Lui ti dice, tu fai la musica e poi passa attraverso le mie macchine e io la trasformo. La mia macchina! Che macchina?